Le urne anticipate ci creano sicuramente dei problemi che sono innegabili, anche perché al contrario di tutti i partiti di regime draghiano, che adesso si divideranno per le elezioni, salvo poi tornare a votare insieme per fare la guerra, noi dovremo raccogliere le firme e abbiamo quindi pochissimo tempo per fare le liste, per presentarci. Inoltre avevamo immaginato un percorso più lungo, però insomma siamo abbastanza combattivi e militanti per provare ad esserci, a guastare la festa al governo. La nostra proposta di unione popolare non è una proposta volta solo a unificare alcune sigle, anzi speriamo che altre se ne aggiungano, ma a creare un movimento popolare per l'alternativa nel nostro paese. Quindi vogliamo coinvolgere tutte le aree non allineate con le politiche neoliberiste e con la guerra. Chi sperate si unisca a voi in questa iniziativa, sia a livello partitico sia a livello di movimenti di forze sociali? Io credo che c'è una maggioranza del paese pacifista, ci sono movimenti impegnati sui temi della giustizia sociale e ambientale, c'è un'area di sinistra molto più larga delle organizzazioni, c'è chi è impegnato in tante forme diverse nel paese e in resistenze importanti, in esperienze importanti di lotta sindacale. Domani ci sarà la manifestazione a Piacenza per i compagni arrestati, per fare un esempio nell'ambito di questa operazione infame di criminalizzazione dell'attività sindacale. L'altro ieri ero a Genova in piazza Limonda, piena come ogni anno di persone con una storia di impegno sociale, civile, di politico. Quindi noi siamo aperti a tutti e tutti coloro che si riconoscono in un programma minimo di cambiamento del paese, a partire dalla rivendicazione dello stop alla guerra, che invece va verso la prosecuzione di un'escalation pericolosissima. Quindi siamo aperti a tutti coloro che hanno condiviso con noi anni di battaglie, di lotte, di mobilitazioni. È ora di non rassegnarsi all'alternanza finta tra il partito draghiano di centrosinistra e lo schieramento draghiano di destra. Se il Movimento 5 Stelle di Conte andasse per conto suo, senza il Partito Democratico, senza il centro-sinistra, sarebbe pensabile correre assieme per voi? Ma è una cosa di cui discutere, non credo che lo faranno. Io personalmente non ho preclusioni, anzi sarei molto contento se ci fosse una svolta nei 5 Stelle vera, mettendo in discussione le porcherie che hanno fatto negli ultimi anni, alleandosi praticamente con il peggio della politica italiana e con il sistema che avevano detto di abbattere. Ne discuteremo insieme agli altri. Io credo che potrebbe essere positiva una coalizione di alternative contro la guerra, però dovrebbero insomma fare un po' pace con se stessi, mettere un po' ordine nelle idee. Non si capisce se erano effettivamente antidraghiani o no, se su molte cose insomma mi sembra che non abbiano ancora le idee chiare loro, quindi è un po' prematuro. Abbiamo pochi giorni per presentare una proposta e cominciare a raccogliere le firme. Sarebbe interessante vedere una svolta all'opera, perché indubbiamente il Movimento 5 Stelle aveva raccolto molte speranze di rottura anche di elettori di sinistra, ambientalisti, soprattutto dell'elettorato popolare, che sempre più si astiene deluso da tutte le proposte politiche che sono visibili nell'attuale scenario. Ecco, c'è bisogno di una proposta di rottura. Arriviamo allora alla proposta. Quali sono i primi provvedimenti che prende un governo dell'Unione Popolare? Beh, prima di tutto il salario minimo di almeno 10 euro, l'età della pensione a 60 anni, 1 milione di assunzioni nel pubblico per colmare il gap tra l'Italia e la media degli altri paesi europei, perché non ne possiamo più di classi pollaio nelle scuole, di ospedali chiusi a posto e di file al pronto soccorso e di liste di attesa, provvedimenti drastici dal punto di vista ambientale con la fine del fondo. fossile, e poi soprattutto lo stop all'invio delle armi in Ucraina e l'assunzione da parte dell'Italia di un ruolo di pace, mediazione trattativa per porre fine al più presto al conflitto. Ecco, un governo di unione popolare dovrebbe dire: l'Italia è il paese dell'articolo 11 della Costituzione, ferma la guerra. E poi il blocco degli aumenti di tutte le bollette e dei prezzi, di tutti i rincari, e la reintroduzione della scala mobile per recuperare il furto rispetto ai salari che c'è stato in questi mesi con l'esplosione dell'inflazione. Credo che su questi punti e molti altri si potrebbe agire molto molto rapidamente e con decisione nel nostro paese, se si ha un'agenda diversa dai due schieramenti che rappresentano gli interessi del grande capitale. Poi ovviamente l'abolizione della legge sulla precarietà, insomma le agenzie interinali vanno chiuse e la gente ha diritto a un lavoro con un salario giusto e con la possibilità di una stabilità occupazionale che oggi è diventato un miraggio per milioni di lavoratrici e lavoratori precarizzati.